E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo A Tempo di Sport con Carlo Genta. Pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Come avete sentito nel giornale radio che ci ha preceduti, Silvio Berlusconi è a Milanello per progettare il futuro del Milan. Da Pechino Mourinho ha ribadito solo poche ore fa che per completare lo scacchiere dell'Inter serve un alfiere con i piedi buoni, un trequartista. La Juventus per un attacco al potere serio ha bisogno, dicono tutti e sono d'accordo, di iniezioni sulle fasce. Il Milan è appunto il grande rebus dell'estate. La Fiorentina ha ancora diversi vuoti. La Roma sta per perdere Aquilani, è notizia di oggi insomma. Xabi Alonso Real Madrid per 30 milioni apre la porta al passaggio di Aquilani. Al Liverpool si parla di 20 milioni e l'affare si farà. Il Palermo di Zenga ha un'aria interessante, così come il Genoa del dopo Milito, così come il Napoli, che secondo me è molto più forte rispetto al passato, anche se diversi ascoltatori non sono d'accordo. Pertanto oggi vale la pena di fare un gioco, se vi piace. Ovviamente chiedo il vostro aiuto, 800240024, e la domanda è: cosa serve ancora alla vostra squadra per raggiungere il traguardo, che sia esso lo scudetto, la salvezza o l'Europa? Per dare un'occhiata alle carte abbiamo chiamato un grande allenatore che saluto e ringrazio, Alberto Zaccheroni. Buon pomeriggio Alberto, grazie. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Senti, partiamo dall'Inter, anzi partirei dalle tue squadre. Metto l'Inter per prima per ragioni di ranking. Diverse più forte rispetto al passato, secondo me. Manca un creativo, come dice Mourinho, manca uno spruzzo di fantasia e sono d'accordo con l'allenatore nerazzurro. E tu? Io credo che Thiago Motta possa elevare il tasso qualitativo della squadra. Trequartista, bisogna ricordarsi che la scorsa stagione Stankovic, che ha giocato, che è stato utilizzato in quel ruolo, pur non essendo avviso un trequartista, per me un trequartista anomalo, io lo spostai sulla sinistra e lo feci partire praticamente a fare il trequartista, ma non spalle alla porta. Sì. Però ha dato all'Inter quel qualcosa che gli mancava, ovvero il dinamismo, l'imprevedibilità, perché l'imprevedibilità nella passata stagione era legata alle galoppate di Maicon e alle giocate di Ibrahimovic. Certo. Quindi io credo che questa squadra necessiti assolutamente di imprevedibilità. L'imprevedibilità può essere anche il trequartista che inventa, però il dinamismo chi glielo dà? Perché Zanetti copre la sua zona, Cambiasso sì, si dice qualche volta in verticale, però non dà grande dinamismo. Il dinamismo parte quello laterale sulla parte destra dato da Maicon, ma chi glielo dà? Lo scorso anno mancava questo e con Stankovic l'ha risolto. Se vai sul trequartista classico, questo non ti dà dinamismo, ti dà creatività. Alberto, anche miei, da professore del 4-3-3, questa squadra è strutturalmente adatta per questo tipo di gioco? Non è il sistema di gioco, è l'interpretazione. Lo scorso anno il 4-3-3 di Mourinho non poteva reggere, non perché Mancini non era all'altezza, perché Mancini non è che sia diventato così scarso, non è il top, ma non è neanche scarso. Il 4-3-3 prevede due uomini che giocano molto larghi per allargare la difesa avversaria. Io francamente lo scorso anno Mancini non l'ho mai visto, quando l'ho visto largo l'ho visto 20-25 metri dalla riga. Io credo che il magazziniere nel momento in cui gli andava a pulire le scarpe non abbia mai trovato il gesso sotto le scarpe di Mancini. Io me lo ricordo, l'ho seguito con grande attenzione perché l'Inter, con grande curiosità anche per l'arrivo del nuovo tecnico che conoscevo poco. Sì. E Mancini, io ricordo che nelle sue apparizioni giocava davanti a Zanetti, prima davanti a Vieira e poi davanti a Zanetti. Sì. Ecco, sicuramente non è il suo ruolo. Non lui, è il suo ruolo. Lo dà quando riceve la palla con i piedi sulla riga bianca. Deve partire con i piedi sulla linea bianca per l'appunto. 4-3-3 ha efficacia perché ti dà il vantaggio della gara di difesa avversaria, ma nel momento in cui tu tieni questi due uomini molto larghi. Alberto, Milan, altra tua squadra, Milan da rifondare, grande rebus dell'estate, dicevo, per ripartire secondo me servono coraggio, fantasia, idee che fino adesso non si sono viste, al di là dei quattrini che comunque saranno una componente indispensabile. Credo che il grande errore sia stato, ne parlavo ieri con Giovanni Galli, un'assenza di comunicazione dei progetti veri di questa squadra, probabilmente derivata da un'assenza di chiarezza all'interno del club. Tu come la interpreti questa vicenda? Ma io credo che tu abbia ragione. Negli ultimi anni la sensazione è che di tanto in tanto qualcuno al mattino si svegliava e diceva: bene, prendiamo, voglio questo. Ecco, e questo non è finalizzato sicuramente a un progetto tecnico, può essere un altro tipo di progetto nel quale non voglio entrare in merito, ma sul progetto tecnico questo tipo di comportamento non c'entra proprio nulla. Altre due squadre tue, Udinese e Lazio, c'è chi mi accusa, hai dette tutte, non hai citato solo la Lazio, questa è malafede per niente, ci sarei arrivato comunque. Udinese e Lazio, Udinese perso Quagliarella, non è molto diversa rispetto al passato, rimane comunque un'ottima squadra. La Lazio, che si giocherà questa Supercoppa a Pechino, è molto legata in questo momento alle lune presidenziali, se mi consenti. È una squadra comunque in grado di fare un buon campionato, come nelle ultime stagioni, perché non ha steccato una stagione in rapporto all'organico, secondo me, la Lazio. Ma io credo che questo presidente, del quale non sempre se ne parla bene, comunque riesce sempre a far tornare i conti. Quest'anno che ha fatto il campionato meno positivo, si è portato a casa la Coppa Italia. Alla fine riesce sempre a cercare un obiettivo. Sì. La Lazio, lui è molto attento ai conti, è un po' padre padrone in questa situazione. E lui ha perso un allenatore bravo e ne ha portato a casa un altro altrettanto bravo. Gente che parla poco, uomo di campo che gli fa crescere i giocatori, perché l'obiettivo di Lotito è quello di far mercato, di valorizzare, sì, il pacco giocatori, sì. Quindi penso che abbia sicuramente indovinato anche questa volta. Ha molta qualità davanti, discreta in mezzo e a mio avviso poco dietro. Non c'è un grande equilibrio da questo punto di vista. Le attenzioni del mercato vengono rivolte principalmente alla parte offensiva, dove c'è addirittura abbondanza, sì, in questo momento rispetto agli obiettivi, in proporzione agli obiettivi indicati dalla proprietà. Ecco. Sì, mentre dicevamo l'Udinese. Ecco, l'Udinese, attenzione, l'Udinese piace la mano. Anche a me. Almeno direte, sono tutti elementi richiesti da grandi squadre, poi non sono vendibili perché Pozzo non ha bisogno di soldi, ne ha incassati già tanti e quindi ha solo il problema degli utili, delle imposte da pagare sugli utili, perché è l'unico che gestisce la società calcio come una vera azienda, tant'è vero che mi risulta che abbia venduto le sue aziende, sì, perché la sua azienda principale oggi è il calcio. Sì. Quindi lui vende quando un giocatore costa 20, lui non vuole 20, non vuole 19. E certo, cioè come ha fatto con D'Agostino, come ha fatto con molti altri in passato, è un osso duro. Lui dice: la quotazione è questa, se me li date bene, se no faccio senza. Mi tengo il giocatore, non c'è problema. Alberto, ti rubo ancora una considerazione sulla Juventus, che non è stata una tua squadra, però molto intrigante in questa estate. Diverse combinazioni possibili per il centrocampo, qualche vuoto da colmare sugli esterni, ma questo non è una novità, lo dicono tutti. Piuttosto, sei d'accordo con Sacchi quando dice che Chiellini e Cannavaro hanno le stesse caratteristiche? Chiellini ha risposto un po' scocciato, come ci ricordiamo. Tu cosa ne pensi? Ma a me, sinceramente, a me sembra che un po' tutte le squadre abbiano i centrali abbastanza simili, Sono due aggressivi entrambi, non sono due che riflettono, non sono due che temporeggiano molto, sono due che giocano molto sull'anticipo e se lo possono permettere entrambi posseggono un ottimo recupero. Ecco, l'importante è che però uno copra l'altro, ecco, quindi dipenderà, secondo me il problema non c'è anche perché Chiellini comunque in fase di impostazione se la cava, avendo un trascorso da fuoriificante in fase di iniziazione la posso iniziare discretamente bene, quindi io questo problema lì francamente non lo vedo più, un po' più per il numero di infortuni negli anni passati di questi giocatori, no? E assenze dovute a infortuni, quindi le alternative a mio avviso diventano importanti, perché tu devi fare 80 punti per vincere il campionato, di conseguenza devi essere competitivo tutte le partite. Certo. Certo. Ecco, quindi non puoi rimandare. Ecco, io ho una grande fiducia perché in mezzo campo hanno dato tanta sostanza, enorme sostanza. E davanti Diego, io l'ho seguito personalmente col Werder, sono andato a vedere le partite con l'Udinese, l'ho voluto vedere da vicino, mi sembra un giocatore estremamente interessante, è un brasiliano tipico, molto, molto europeo nel tipo di espressione di gioco. Senti Alberto, visto che mi rimproverano perché non ti ho chiesto del Bologna, io ti chiedo un istante di pazienza, pochi secondi per il traffico e poi giustamente anche un'altra delle tue squadre, il Bologna. Qui aggiungerò una domanda sul Parma perché mi sembra che della seconda fascia di classifica sia quella che ha lavorato in maniera più interessante. Allora Alberto, Bologna insomma alle prese con vicende societarie non chiarissime. Ieri facevo una battuta dicendo gli altri hanno gli arabi, da noi nemmeno un imprenditore albanese riesce ad entrare oppure non vuole entrare. Comunque Bologna alle prese con una situazione difficile. Il Parma invece mi sembra che delle squadre della metà destra della classifica sia quella che ha, poi vediamo se funziona sul campo, che ha creato il gruppo più interessante. Dunque, partiamo da chi partiamo? Dal Parma? Da chi vuoi. Siamo partiti dal Parma. Il Parma aveva una squadra già competitiva, molto competitiva lo scorso anno, era una squadra che la Serie B non c'entrava assolutamente nulla, quindi era una squadra già discreta per fare la A. Poi è stata migliorata perché evidentemente lì c'è tra i dirigenti, o non so, per loro c'è competenza a mio avviso, e hanno migliorato decisamente la squadra. Poi io, forse perché ci sono cresciuto contro, non vicino, ma contro, io ho una grandissima stima di Guidolin. Sì. Secondo me è un tecnico che è sempre stato sottovalutato, probabilmente per il suo modo di proporsi. Penso anch'io. È troppo serioso, ma Guidolin è un tecnico decisamente coi fiocchi dal mio punto di vista. Forse perché lo conosco meglio degli altri, che ho fatto i corsi assieme e ci siamo sempre confrontati dalla C alla A. Il Bologna, ahimè, è quella che seguo più da vicino perché la Serie A, appunto, devo andare a Bologna e Parma a vederla da Cesenatico. Quindi seguo molto da vicino. L'approdo di questo Tacci sembrava un toccasana per le casse della società. Questo è un club che si è salvato all'ultima giornata con i numeri peggiori della storia. Sì. In quanto non è mai, anche quando Bologna è retrocesso negli anni precedenti, mai ha fatto così male quei numeri. Sì, sì. Quindi questo la dice lunga sulla pochezza di questo club, di questa squadra. Andava rinforzata, sono stati gli ultimi a salvarsi perché si sono salvati all'ultima giornata. Avevano più necessità di altri di intervenire, non sono potuti intervenire prima per questo motivo, adesso questa trattativa lunga ha ritardato altri impegni, le casse sono quelle che sono, è una stagione a rischio, è una stagione decisamente a rischio. C'è quella vicenda poi di Moggi è andata ad incidere negativamente anche questo sul morale, sugli stimoli, sulle prospettive e anche sull'immagine della società attuale. E quindi c'è il rischio anche che ci sia contestazione fin dal primo risultato negativo. E questo non aiuta sicuramente la squadra, perché Bologna è una città dove da fuori pensi che si possa fare il miglior calcio del mondo, perché ha una bella visibilità, città tranquilla, è un bello stadio, ci sono tutte le condizioni per far bene, però è una riflessione mia degli ultimi tempi che allenatori, giocatori, tranne i signori Baggio e Di Vaio, quindi giocatori verso la fine carriera, tutti gli altri non si sono riusciti, nessuno di loro si è riuscito a decolare da Bologna. Non ha trovato un ambiente semplicissimo. È un ambiente, è una realtà che va avanti e francamente non riesco neanche a capire il perché. Capire i motivi. Alberto, ti ringrazio davvero, buona estate. Grazie a voi, altrettanto. Davvero un grande piacere parlare con Alberto Zaccheroni. Adesso è un grande piacere anche parlare con gli ascoltatori, che oggi sono moltissimi, quindi sintesi, mi raccomando ragazzi, Denis Torino, Daniele Siena, Luca Torino, 800240024, partiamo da qui, Torino. Denis, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Volevo intervenire, volevo fare una domanda a Zaccheroni, ma mi sa che se n'è andato. Sì, ma lo richiamiamo nei prossimi giorni, stai tranquillo. Prego, prego. No, volevo solo parlare del mercato del Milan, diciamo, che secondo me comunque hanno fatto bene a vendere Kakà. in quanto comunque insomma i conti sono da tenere in buono stato, su questo non ci sono dubbi, visto l'andazzo dell'economia in Europa. Ho anche visto dei titoli sui giornali che parlavano del mercato delle squadre inglesi che sono quasi al collasso, diciamo, e che comunque continuano a spendere. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare, secondo me abbiamo fatto un'ottima cosa. Anche l'unica sì. cosa che abbiamo sbagliato forse l'abbiamo venduto a troppo poco. No, venduto, viste le quotazioni di mercato sì, ma l'impressione è che Kakà sia stato comunque venduto un po' prima rispetto a, ai tempi in cui è avvenuta la comunicazione, dunque senz'altro poteva spuntare qualche dollaro in più il Milan. Sul fatto che abbia fatto bene a vendere Kakà e a tenere d'occhio i conti, cioè, dunque partiamo dalla premessa che il calcio inglese è gestito su basi e parametri diversi, magari non condivisibili, ma è tutto differente, c'è la variabile impazzita. E ne parlavamo l'altro giorno con Mario Sconcerti, degli investitori stranieri che da noi appunto non entrano, ci sono stati di proprietà, ci sono modalità diverse più manageriali di gestire il calcio, che non è solo uscita ma anche entrate che non derivano esclusivamente dal mercato dei giocatori. Bene a vendere Kakà, tenere d'occhio il bilancio? Sì. Però vale quello che dicevo prima, cioè serviva un piano B, vendiamo Kakà, abbiamo un altro piano, abbiamo altri obiettivi. Comunichiamo questi obiettivi, quello che emerge dall'estate del Milan, e vediamo se oggi succederà qualcosa di nuovo e diverso, perché credo sia un giorno chiave, è proprio questa mancanza di strategie che lascia un po' tutti disorientati. Non si può vendere Kakà e dire siamo forti come l'anno scorso, perché questo semplicemente non è vero. Siena, Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto vorrei dire che oggi ho apprezzato particolarmente la vostra trasmissione, in quanto ho sentito parlare anche un po' di Bologna, di Parma, di Udinese, e qui mi leggo alla domanda che volevo fare. E mi è venuto in mente di dedicare una trasmissione a fare un po' il quadro tecnico delle altre squadre della Serie A che non fossero Inter Milan, così anche per avere un'idea di chi è molto l'allenatore volentieri. Del Bologna, molto sapere volentieri. Chi è l'allenatore del Parma, cioè, molto volentieri. Questo qui, perché poi vi ascolto sempre, quindi molto volentieri. Sono un appassionato di calcio. Io vorrei però anche una risposta alla domanda gioco che ho fatto all'inizio, cioè che cosa serve ancora alla vostra squadra per raggiungere il traguardo, sia essa il Siena, il Bologna, il Parma, eccetera eccetera, perché mi interessa l'opinione che avete. Lei di che squadra è, Daniele? Il Siena, ovviamente. Il Siena. Come lo vede allora il Siena? No, lo vedo bene, vedo una buona squadra fatta di giovani, e qui mi potrei anche legare ai discorsi che sento sempre nella vostra trasmissione. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Del discorso dei giovani, cioè posso dire che il Siena ha qualche giovane interessantissimo, potrei citare Rossettini, sì. Che è un centrale difensivo molto bravo. Che mi pare sia pupillo di Giampaolo, no? Pupillo di Giampaolo, l'anno scorso purtroppo si è infortunato all'inizio di stagione, ma è un ragazzo veramente forte. Insomma, diciamo il Siena ha dei giovani interessanti, e secondo me anche le grandi squadre dovrebbero dare più attenzione alle squadre come il Siena, come Bologna. Sì, ma secondo me al Siena manca, vediamo cosa combina quest'anno Maccarone, ma manca ancora un attaccante, credo, in grado di produrre gol. E poi Zuniga era comunque un... La rivelazione della stagione è andato a Napoli, gran colpo del Napoli, non è stato, ho l'impressione, ancora rimpiazzato con un giocatore dalle stesse caratteristiche, magari dallo stesso valore. Grazie Daniele. Luca, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io ho seguito con interesse l'intervento di Zaccheroni riferito all'Udinese, alla Juventus e a tutte le piccole squadre. Mi sarebbe piaciuto chiedere a Zaccheroni effettivamente se lui avesse avuto 25 milioni di euro, parlo della Juventus, se avrebbe acquistato Diego anziché D'Agostino, perché di fatto loro, i giornali parlavano di D'Agostino in posizione arretrata a centrocampo, e quindi diciamo nella posizione di Felipe Melo, ma secondo me era più un trequartista che un mediano metodista. Quello che manca secondo me alle squadre diciamo di medio-bassa classifica è il settore giovanile in Italia, perché di fatto c'è polemica sul Torino, polemica sul Bologna, però effettivamente non hanno più settore giovanile come i tempi. Non solo, Luca, non solo quelle di medio-bassa classifica, parlavamo ieri del Milan che per anni non ha lasciato crescere le erbacce nel giardino del settore giovanile. Quest'anno cambia politica, questo sì è un'inversione di tendenza importante. È tornato a muoversi strategicamente in maniera diversa sul settore giovanile, tornerà ad investire sul settore giovanile, perché credo quella sia la strada, insomma. Altri club come l'Inter, la Sampdoria, lo stesso Palermo hanno fatto investimenti sul settore giovanile. È chiaro che i frutti arrivano con il tempo, però sono i frutti migliori, per non dire della Roma stessa, insomma, che ha costruito questa squadra partendo proprio da lì. Quindi è un problema che riguarda non solo le squadre di medio-bassa classifica, insomma. Grazie. Saro Catania, buongiorno. Buongiorno. Vorrei sapere una sua opinione sul nuovo Catania e su tutte le squadre del sud, il Palermo che dice di voler vincere anche lo Scudetto, il Napoli, insomma, pensa che le squadre meridionali ce la possano fare questa volta? A fare cosa? Io credo che il Palermo vince lo Scudetto, no, però è una squadra estremamente interessante. Precampionato l'ha dipinta come la squadra più in forma. Si dice di questo Pastore che è un giovane di grandi qualità, vediamo la riprova del campionato italiano. Senz'altro il Palermo ha un'eccellente squadra, ovviamente non da competizione per lo Scudetto, per l'obiettivo massimo che Zenga ha buttato lì un po' alla Mourinho, però è una squadra che può mettersi con il Napoli, che a me piace molto, con il Genoa, che secondo me è addirittura più forte rispetto all'anno scorso, nonostante abbia perso i suoi due giocatori migliori. Questa è la borghesia del nostro calcio, credo che abbiano operato tutti molto bene e siano lì alle spalle di Inter e Juventus, non riesco a dare una collocazione al Milan, siano lì insieme alla Fiorentina che ha ancora diversi buchi nel roster e siano lì a fare questo campionato delle altre, che sarà molto molto interessante. Risposta alla mia domanda, alla vostra squadra cosa manca a vostro giudizio per essere competitiva rispetto ovviamente agli obiettivi che possono andare dallo Scudetto alla caccia all'Europa, alla salvezza? Al mio Bari secondo me servono tre giocatori, Zoboli e Corzegno del Brescia e Pozzi dell'Empoli, scrive Ezio. In effetti il Bari, insomma, dovrà lavorare ancora in questo agosto di mercato. C'è anche chi scrive: per me il Milan, se acquistasse Fabregas e Pellissier, potrebbe sicuramente lottare per lo Scudetto. Fabregas se ne parla soprattutto in Inghilterra. Sun scrive di questa offerta di 35 milioni che non so se ci sarebbe, se non ci sarà mai, se è stata presentata, questo non lo sappiamo, però si scrive di questo interesse del Milan per Fabregas, soldi 35 milioni e mi sembra, guardate, una quotazione corretta, perché se Xabi Alonso è andato al Real per 30, insomma, Fabregas 35 li vale, posto che sono cifre mostruose, però 22 anni ed è, a mio giudizio, più forte centrocampista europeo quasi. Adesso però voglio farvi sentire, prima di Alberto, Alessandro e Marco, che sono i prossimi tre ascoltatori in linea, voglio farvi sentire cosa ha detto Mourinho da Pechino. Se vogliamo fare quello che il Chelsea ha fatto negli Stati Uniti, che è giocare con la meglio squadra tutte le partite per vincere un torneo senza significato, noi non vogliamo questo. Mi manca non ti dico un nome, ti dico un profilo di giocatore. Manca questa squadra un giocatore di centrocampo, un trequartista, un giocatore con qualità diverse dalle nostre, un giocatore più offensivo, un giocatore più creativo. Abbiamo 10-15% di possibilità di vincere, abbiamo 85-90% di possibilità di perdere. Queste percentuali erano riferite alle possibilità dell'Inter di vincere la prossima Champions League. Mourinho ha detto l'anno scorso le possibilità erano zero, quest'anno sono quelle che avete sentito, perché giustamente il ragionamento è corretto ed è quasi matematico, direi. 7-8 squadre vogliono vincere la Champions League, ne hanno le caratteristiche, le qualità, il credito, tra queste ci siamo anche noi e dunque le percentuali sono quelle che avete sentito. Alberto da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, vorrei solo una considerazione in merito al fatto che ritengo che il Chievo possa essere la squadra sorpresa dell'anno, in quanto è l'unica che ha mantenuto l'intera formazione con gli stessi giocatori dell'anno scorso, avendo fatto un girone di ritorno strepitoso e sapendo, appunto, come dice anche Mourinho, che tutte le altre squadre, presa la sua, sono carenti in qualche reparto. Sì, Sì, il Chievo ha mantenuto la stessa ossatura, ma molte altre insomma hanno conservato la stessa struttura. Chievo ha fatto un girone di ritorno splendido l'anno scorso, soprattutto per ora il Chievo ha fatto il colpo grosso, che è stato quello di trattenere Pellissier, che insomma è lì da una vita, da una carriera intera, e che è quello poi che riesce a segnare i gol salvezzi, i gol più pesanti. Un paio di rinforzi io li vedrei bene, giusto per magari per stare un po' più tranquilli, però comunque il Chievo sembra aver preso l'abbrivio giusto dopo l'orrenda prima parte della scorsa stagione. Prima di andare a Modena e poi a Firenze, io vado a Milanello da Cristiano Ruio per capire cosa sta succedendo. Ciao Cristiano. Buon pomeriggio a tutti, ciao Carlo. Allora, lo stato attuale delle cose qual è? Allora, Berlusconi è arrivato alle 12.55, è atterrato con il suo elicottero sul campo centrale di Milanello, accolto da Galliani e Leonardo. Galliani è arrivato circa un'ora prima, mentre la squadra stava svolgendo la sua seduta mattutina. Oggi, come sempre in questi giorni, allenamento doppio per recuperare il lavoro non svolto durante questa massacrante tournée. Ha cominciato il pranzo con la squadra, quindi ha rivolto qualche battuta, qualche parola ai giocatori presenti, soprattutto ai più rappresentativi. Chissà, non ci è dato sapere se magari ha fatto anche una mezza battuta a Ronaldinho dopo le notizie uscite in queste ultime ore sulla sua notte brava a Barcellona, peraltro notte brava durante i giorni di riposo, sì. Quindi più che mai legittima. Sì. E adesso è ancora pranzo, almeno fino a 10 minuti fa, quando abbiamo ricevuto le ultime notizie dalla sala da pranzo di Milanello, è ancora a tavola con Galliani e con Leonardo. Quindi c'è da pensare che in questa ora e mezza, ma in quasi 2 ore di pranzo, abbiano pianificato le strategie di mercato, a partire dalla cessione o dalla permanenza, ipotesi che nelle ultime ore ha preso quota, di Pirlo, per arrivare ai 2 desideri di Leonardo, che poi più che desideri di Leonardo sono vere e proprie necessità, cioè all'attaccante e al terzino. Sì, insomma, io credo che Berlusconi a questo punto sia un po' accerchiato dai media, sia sotto una pressione che probabilmente non aveva previsto e preventivato intorno a quest'estate del Milan. Credo che qualche movimento ci sarà per forza. Su Pirlo tu che impressioni hai? Su Pirlo fino a stamattina credevo proprio che partisse. Se ti devo dire adesso, potrebbe essere che Berlusconi abbia cambiato idea, perché la delusione, lo scoramento, la rassegnazione dei tifosi anche oggi in centro, non di più qui a Milanello, non c'è neanche area di contestazione, c'è davvero area di rassegnazione. La convinzione che il Milan dal punto di vista tecnico rischi di perdere tantissimo, stanno avendo la meglio sulle necessità di bilancio, che rimangono comunque. Certo. Devo dire che Leonardo sembrava piuttosto rassegnato anche a cambiare il progetto tattico del centrocampo del Milan, con un giocatore magari più fisico e meno tecnico al posto di Pirlo, ma è chiaro che avere Pirlo in rosa è un vantaggio anche per lui. Lo certo. Sa benissimo. Senti, ma Fabregas è fantacalcio, giusto? Assolutamente sì, non illudiamo i tifosi, perché se Milan ha venduto Kakà per ripianare il bilancio, incassando 67 milioni, non è pensabile che ne possa investire 40 per Fabregas. Questo nemmeno sotto questa delusione dei tifosi, perché è anche inutile. Nemmeno sotto questo bombardamento mediatico intorno al Milan. E invece l'attaccante chi sarà? Soliti nomi, no? Sì, assolutamente sì. La contraddizione che riguarda Fabregas, che peraltro sarebbe un acquisto straordinario, è che in Milan, cioè Leonardo, ha manifestato come 2 necessità prime l'attaccante, il centravanti e il terzino. Quindi se Milan fatica a tirar fuori i soldi per prendere queste 2 che sono 2 necessità per Leonardo e anche oggettivamente per la squadra, figuriamoci se va a spendere una cifra così importante per un giocatore che, non dico che non sia necessario, sarebbe importantissimo averlo, ma non è, diciamo, la prima necessità. Perché Berlusconi non si sveglia una mattina, come è spesso capitato in passato, ultimo Ronaldinho, dica: voglio quello, voglio lui, nessun altro. Allora il film può cambiare, ma mentre, non credo. Mentre l'anno scorso ha fatto questo, cioè si è svegliato una mattina con Ronaldinho, c'era già una squadra, un impianto costruito, e Ronaldinho è stata la classica ciliegina, che poi non si è rivelata tale fino in fondo, ma era la classica ciliegina. Sì. Adesso ci sono delle necessità, certo. Cioè non si può prescindere da... non si può prescindere dal terzino e dal centravanti, quindi il regalo di Berlusconi questa volta non sarebbe una ciliegina, ma sarebbe la torta. Grazie Cristiano, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto. Grazie Cristiano Ruiu. Continuiamo con gli ascoltatori. Alessandro da Modena, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Niente, io volevo intervenire per il discorso di chi dovrebbe acquistare o come rinforzare la mia squadra. Io sono interista, il mio sogno sarebbe quello di vedere Cassano all'Inter. Esattamente, qua si parla di tanti giocatori. Sogno a colori. Sì. E penso che comunque anche sulle indicazioni di Mourinho, un trequartista come Cassano, cioè Cassano sì, è un pochino più attaccante, però penso potrebbe coprire quel buco che dice Mourinho esserci a metà campo. Sì, anche che ci sia. La mia impressione è che il suo sogno coincide un po' con quello del suo presidente. Quello di Mourinho credo invece sia diverso. Diverso perché per la ragione che lei ha detto. Il nostro presidente è già sempre abituato ad acquistare anche giocatori molto per a pelle più che tatticamente. Sì. Anche perché penso che Cassano comunque meriterebbe una ribalta internazionale più ampia di quella che ha fino ad oggi. Sì, sono d'accordo. In più c'è anche da dire che adesso con Mourinho la testa calda di Cassano probabilmente si metterebbe un attimino a posto. Con Mancini l'avrei visto molto più duro come rapporto. Sì, sicuramente ritengo una persona più di polso Mourinho che non Mancini. Ma non parlerei di polso, parlerei proprio di modalità diverse nella gestione dell'organico, del personale. Cassano, io credo che per le idee di Mourinho appunto sia un po' troppo offensivo e per questo credo che non arriverà Mourinho in mente un giocatore diverso e non penso che la società abbia intenzione di intralciare i piani dell'allenatore, in questo caso prendendo un giocatore differente da quello che Mourinho vuole. Firenze, Marco, buongiorno. No. Allora, io innanzitutto a Firenze non è che dispiaccia tanto, insomma, che sia andato via un giocatore come Melo, perché averlo visto poi no quest'anno, come dire, era un po' un giocatore molto falloso, molto un po' un cavallo pazzo, anche nello spogliatoio non è che, almeno si vocifera, che era bene accetto, dopo anche la rissa che ha fatto con il Cagliari. E io credo che Corvino stia lavorando sotto traccia, in questi anni ce l'ha dimostrato, io almeno personalmente, ma anche tutta la città, abbiamo fiducia che ci porterà un forte difensore centrale, dando così il via libera a Dainelli, alla Samp, e un bel difensore di fascia. Si fanno tanti nomi, però io credo che Corvino lasci un attimino chiacchierare questi giornalisti e la Fiorentina si ricollocherà nei posti dove è stata negli ultimi anni. Ha ragione, ecco. Marco, giusto avere fiducia, perché Corvino insomma è uno che conosce il mercato come le sue tasche e ci si sa muovere molto bene. Melo è stato senz'altro un affare dal punto di vista economico, l'abbiamo ricordato molte volte, preso 8, venduto a 25, affare colossale. Resta il fatto che insomma, mi sembra sia stato un giocatore importante nella stagione della Fiorentina, un po' la chiave di volta del centrocampo, e credo che ci sia anche quel vuoto da colmare, salvo appunto quello che Prandelli si augura, cioè l'esplosione definitiva di Kuzmanovic. Però indubbiamente ha perso non poco secondo me la Fiorentina sul campo con la cessione di Felipe Melo. È arrivato Marchionni, giocatore affidabile, giocatore che è nato dopo i problemi fisici, però appunto al centro della difesa e nel cuore del centrocampo secondo me qualcosa serve, eh? Abbiamo Franco dalla provincia di Mantova prima, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo intervenire parlando sempre di calcio dei giovani, cioè di primavera. Adesso in questi ultimi tempi di crisi economica tutti si buttano sul vivaio, ma non dimentichiamoci che ci sono alcune società, in primis la Juventus, che non capisco perché quando si parla di giovani non viene mai menzionata. No, deve essere menzionata, se non è menzionata è un errore, perché la Juventus è una delle poche ad aver lavorato, ma insomma non c'è bisogno di menzionarla, basta guardare il campo, insomma ci sono Marchisio e De Ceglie e Ariaudo, che secondo me è quello cui Cannavaro terrà in caldo il posto, insomma basta guardare il campo per capire, senza bisogno di menzionare, che la Juventus è una di quelle che meglio ha lavorato, no, sul settore giovanile, che più risorse ha investito sul settore giovanile. Prego. Di Viareggio degli ultimi anni, se è una vittoria che conta qualcosa, è un po' una Champions League del settore giovanile, no? Quindi è ovvio che anche il Milan adesso, dall'oggi al domani, non si può inventare un settore giovanile, certo, come ha la Juventus, che ha praticamente investito sui giovani prima ancora di Moggi, perché io seguo il calcio giovanile prima ancora della cosiddetta triade Moggi, Giraudo e Bettega. La Juventus puntava sui giovani, che poi non tutti arrivavano in prima squadra, ma andavano a rinforzare o a maturare in altre società, diciamo, di media fascia. Sì. O no, ma insomma, sappiamo come il settore giovanile sia una pianta che va piantata, innaffiata e curata ogni giorno. servono giardinieri bravi, servono soldi, la Juventus lo fa da anni e adesso sta raccogliendo i frutti. Il Milan non lo ha fatto per anni, tant'è vero che anche lì basta guardare il campo, non ci sono giocatori usciti dal settore giovanile rossonero pronti per il ricambio, ci sono delle promesse e delle speranze, la più importante delle quali è Paloschi, è stata Paloschi, però insomma il Milan tornerà a farlo, così come torneranno a farlo altri club, perché è diventata una necessità. Maurizio Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti, saluto tutti. Salve. Mi permetto solo velocemente di cambiare un po' l'argomento della mia telefonata. Prego. Che è questo. Allora, io ho dato un'occhiata, ho visto un po' così forum in rete, discussioni di calcio, ho visto un pochino i bilanci delle società, che mi sembra che sia proprio un'inchiesta fatta da Sole 24 Ore. Sì. Almeno come fonte è stato riportato, sì, quello, no? Sì. Quindi prendo per buono quello che ho letto. Sì. E la cosa di cui sono rimasto pesantemente scioccato è che praticamente non c'è una società che sia una che sia con i bilanci, diciamo, almeno alla pari. Senza parlare di società come Milan e Inter, che hanno dei buchi che sono, dicevo, se io fossi un tifoso di Milan e Inter dormirei sonni poco tranquilli, no? Però questo qui magari lei ci sa dire qualcosa di più approfondito. Ma guarda, e poi un'altra cosa, io spero vivamente che ci sia anche un cambio di rotta da parte sia di trasmissioni radiofoniche che di trasmissioni televisive. Si sta dando sempre troppo spazio alle solite tre superpotenti del campionato italiano, che praticamente sembra che monopolizzano tutto il calcio, cioè trasmissioni e radio, mentre invece ricordiamoci che il calcio è uno sport meraviglioso, ma è anche fatto da tante altre squadre che non hanno la stessa potenza di Inter, Juve e Milan. Grazie e saluto a tutti. Grazie a lei Maurizio. Guardi, la questione del bilancio abbiamo trattata già diverse volte con i colleghi del Sole 24 Ore che ci lavorano tutti i giorni e torneremo volentieri a farlo. Detto questo, insomma, ci sono anche club. Si parlava l'altro giorno della Roma, che ha perché bisogna fare dei distinguo, bisogna essere precisi, che è vero che ha un buco pazzesco derivante dalla sua situazione societaria, che è molto complessa, però negli ultimi anni è stata gestita in maniera esemplare, tant'è vero che chiude gli esercizi in attivo. Io credo che comunque la situazione del nostro calcio nel complesso, l'ha detto anche l'altro giorno Petrucci, stia comunque migliorando. Questa è una mia sensazione, confermata dai numeri e dai fatti. Però è un argomento molto complesso e vale la pena parlarne con gli esperti del piano di sopra, cosa che facciamo spesso e che continueremo a fare volentieri. Quanto al resto, insomma, mi sembra che oggi abbiamo toccato praticamente l'intera geografia della Serie A, no? Tra Zaccheroni, le vostre telefonate, eccetera. Anche a me piace farlo, anche a me piace andare fuori dal seminato delle solite grandi, però capite bene che anche l'esigenza di scaletta con un'ora tutta compressa, da lì arrivano, come possiamo fare una trasmissione senza fare quantomeno la cronaca di ciò che sta succedendo ad esempio al Milan, che mi sembra il grande caso dell'estate. Poi il parlare di altre squadre dipende molto anche da voi. Io sono qui pronto ad accogliere ogni considerazione, ogni pensiero. Roberto da Savona, buongiorno. Buongiorno, l'accontento subito. Prego. Parlerei rapidamente del Genoa, perché mi ha incuriosito moltissimo il suo intervento, no? Perché tendenzialmente quando una squadra, che ha fatto molto bene, io sono genoano e mai più mi sarei sognato un anno come l'anno scorso, no? Che però vende i tre più bravi, perché comunque Ferrari in difesa, Thiago Motta e Milito sono stati per tutto l'anno i tre più bravi. Sì. Anche se hanno comprato molti giocatori, poi in campo comunque ci si va in 11. Sì, ma ne hanno comprati degli altri bravi. Ne ha comprato degli altri bravi. Come io non li conosco, mi fa piacere capire. Beh, come lei su Crespo una vaga idea, su Crespo una vaga idea ce l'avrà, sì. No? Secondo me Flocker è stato forse il miglior attaccante italiano dello scorso campionato. Adesso così, ma la butto lì, però non vado molto lontano dalla realtà, quindi se c'era un giocatore perfetto per sostituire Milito non poteva che essere Floccari, che ad esempio al Milan avrebbe fatto un gran comodo in cerca di un attaccante. Karja ha fatto una grande stagione nel Siena, può essere un'idea per sostituire Thiago Motta. Gasperini ha dimostrato di avere in tasca la bacchetta magica. Quelli che sono arrivati lì, da Boriello allo stesso Thiago Motta, che è arrivato lì reduce da 2 anni e mezzo di inattività da un infortunio pazzesco, eccetera eccetera, rivitalizzati tutti, quindi senz'altro è un ambiente che sa bene operare. Ha operato bene anche dal punto di vista che abbiamo citato poc'anzi, cioè da quello dei bilanci. Benissimo, questi due giocatori hanno fatto una grande stagione, monetizziamo questo investimento, loro sono contenti, vanno a giocare in un grande club. Il bilancio sorride, il bilancio ne è lieto, e il campo anche, perché alla fine secondo me quelli che sono arrivati, Moretti è un giocatore che non vediamo dalle nostre parti da anni, ma in Spagna ha fatto sempre ampiamente la sua parte con grande costanza. Bocchetti, rivelazione dello scorso campionato, è rimasto. Criscito, che è stato acquistato dalla Juventus ed è il giocatore più in forma di questo inizio di stagione. Insomma, mi sembra che il Genoa non sia inferiore rispetto a quello della passata stagione. Poi è chiaro che dovrà parlare il campo, e Crespo e Flocker dovranno essere in grado di garantire il montegol di Milito, e a centrocampo si dovranno dare da fare per non far rimpiangere la qualità di Motta. Però nel complesso non mi sembra che il Genoa sia più debole dell'anno scorso, ecco. Anzi, ripeto, secondo me anche un po' più forte. Adesso cambio argomento, però, perché abbiamo ancora 5 minuti per parlare di un evento che accade oggi, e non è chiacchiera, è campo, è esigenza di un risultato per l'Italia del basket. Ho anche dei messaggi che domandano informazioni sull'ora e la collocazione televisiva di Italia-Francia di questa sera, che vale un po' di europeo, un europeo da cui l'Italia non può mancare. Ebbene, 20:30 diretta su Rai Sport, più canale sportivo satellitare della Rai. Fabrizio Fabri a Cagliari ci racconterà questa partita. Ciao Fabrizio. Buongiorno a tutti, un saluto. Allora, Italia-Francia atto primo questa sera, girone a tre, Italia-Francia-Finlandia, partita andata e ritorno, la prima ha chance di andare all'europeo vincendo la finale con la prima dell'altro girone, che è francamente più debole, Belgio, Portogallo e Bosnia, buco strettissimo a cui passare per andare agli europei di settembre. Come sta l'Italia? Ma l'Italia complessivamente sta discretamente bene. Recalcati dice che la situazione attuale è quasi l'ottimale. L'impressione è che magari ci sia un pizzico di ottimismo di troppo, specialmente per le condizioni fisiche di qualcuno, però oggettivamente la squadra è arrivata, diciamo, in un buon momento. C'è il problema dello stato di forma di Bargnani, che però può essere superato grazie al grande talento del giocatore di Roma. Posso dire Carlo ai nostri ascoltatori che l'idea di quintetto, se sarà confermato quello che abbiamo visto stamattina nell'allenamento di tiro e di rifinitura, è un quintetto che vedrà Poeta e non Giachetti, come sembrava invece nelle previsioni della vigilia, in quintetto accanto a Belinelli, Soragna. L'altra sorpresa potrebbe essere Valerio Amoroso in spot di numero 4 con Bargnani numero 5, sì. Quindi un quintetto leggermente diverso da quello che pensavamo, però credo che sarà una partita in cui poi si farà ricorso veramente alla quasi totalità della panchina, considerando che poi in questo caso un piccolo pizzico di fortuna, anche se di fronte agli infortuni magari non bisognerebbe dire così, ma la Francia priva di Tony Parker sembra chiaramente un avversario più abbordabile. Certo, della stella più brillante Tony Parker, mancano anche Noah, manca Michael Pietrus, certo, che è anche un gran giocatore, ma restano i vari Dio, Batum e Turiaf. Insomma, uno squadrone alla Francia, dobbiamo batterla e, come ha detto Recalcati, stare attenti anche a alla differenza canestri, sia che si riesca nell'impresa di vincere, sia che ci si debba puntare tutto sul ritorno di Po. Speriamo che non sia così. La grande incognita è proprio Bargnani, no Fabrizio? Bargnani in uno spot da numero 5, da centro, ruolo che fa fatica a ricoprire, è quello meno inserito nel gruppo anche dal punto di vista tecnico e tattico in questo momento. È quello che poi sicuramente sta faticando maggiormente nel riadattarsi al modo di giocare europeo. Lo ha spiegato anche ieri in conferenza stampa, le regole il modo in cui lui riesce a giocare nel campionato NBA gli consentono di utilizzare molto meglio le sue giocate in uno contro uno. Il campo più piccolo in Europa lo limita in questo, il modo di giocare europeo è un modo diverso, quindi lui fatica, non è al meglio della forma. Ricordiamolo che arriva da una ottima stagione, ma il giocatore poi è stato fermo dopo la fine del campionato NBA, dove Toronto tra l'altro non ha neanche fatto i playoff, certo. Per cui chiaramente è stato uno stop abbastanza lungo, come è stato quello di Belinelli. Però il ragazzo mi sembra, rispetto alla Spagna dove lo avevamo visto più calato nel discorso nazionale, mi sembra che in questo momento lui creda in questa avventura. Certo, ci giocheremo la qualificazione agli europei, che se non dovesse arrivare ci toglierebbe da un torneo. L'ultima volta che era accaduto era nel 1961 in Jugoslavia, per cui sarebbe veramente per la pallacanestro che ha tantissimi problemi, la pallacanestro italiana ha un colpo abbastanza duro, però ecco, insomma, la speranza è che questo non accada. Mi viene anche da sottolineare, Carlo, perché noi parliamo tanto di Italia e Francia e comunque la terza del nostro girone resta, secondo me, come valore delle sei che giocano l'additional round, l'unica che qualche fastidio può dare, certo, sia Italia che Francia, lì in Finlandia, perché mai giocatori come Ranicco, Mottola, certo, Koponen, sono esperti, sono forti, quindi a Finlandia senz'altro da tenere d'occhio. Comunque la nostra strada passa per questa sera, Cagliari 20:30, ricordo, diretta Rai Sport più, Italia-Francia, domani torniamo a parlarne. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Saluto a tutti quanti, ciao. Grazie, grazie Fabrizio Fabri da Cagliari, Laura Vanossi in redazione, Filippo Aureggio in regia, torniamo domani alle 14, buona giornata.